Dai, dai, Lorenzo, parte di devo essere io. Allora, questo è Mondo Cani Podcast. Sì, sono molto istituzionale e ho l'onore di avere questa volta, oltre i miei compagni di viaggio, Matteo e Pedar, una delle persone con Piero cui... Angela, i miei compagni sì, sono Piero Angela, sì, sono Piero Angela. Una delle persone con cui ho condiviso uno dei momenti più belli della mia carriera, che è anche uno dei miei rapper preferiti, ovvero Jake La Furia. Un applauso a Jake. Ci sono gli applausi. Ciao raga, ciao raga. Faccio anche io un applauso. Bella, bella, grande. Ok, in realtà insomma ecco Pedar, ora introduciamo, aiutami un attimo a introdurre quello che volevamo dire. Beh, oggi che bisogna questo... dire che non abbia già detto no, nel senso è Jake La Furia, regà, cioè che cazzo, cioè... se non lo conoscete do cazzo avete vissuto, nel senso, cioè che devo dire, do cazzo le dannà. Affanculo, no? E allora, cosa stiamo facendo in questo podcast, Matteo? Aiutami anche io. Non lo so, voi lo sapete. Vabbè, praticamente prima... siamo tre cazzoni che parlano di cose che non conoscono. Ecco, siamo quattro. Allora, è la okay. base. Oggi siamo quattro. A posto, senti, allora aspetta. C'ho una domanda, io una cosa che mi sono chiesto da quando, allora bisogna spiegare perché la gente non lo sa, sì. o almeno non i più sgamati lo sanno, e sì. Quelli meno sgamati. Jake è anche autore di testi rap, ok? Cioè, sì. dal momento che, ecco, io quello che ascoltando ovviamente vari artisti come Shadia Rodriguez ad esempio, ma anche artisti un po' meno conosciuti come ad esempio Alex Mucci, io non so se tu Alex Mucci certo conosco, poi ci arriviamo, però attenzione, Alex Mucci scrive molto da sola anche. Ah, ok, ok. Sì, sì. Questa cosa di scrivere testi per le donne, io non lo so, sì. È una cosa che nella mia testa cozza tantissimo, perché quando una donna rappa, però so che il testo l'ha scritto un uomo. No, l'ha scritto un uomo. Bisogna conoscere molto bene l'argomento. Nella fattispecie, no? quando Alex Mucci dice fottimi più forte, io lì mi sono immaginato comunque, capisci? No, ma Alex Mucci scrive lei, raga. Va bene, ok. Sì, però sì. Vabbè, comunque, come te poni? Cioè, devi conoscere bene l'argomento, giustamente. Poi come, sì, conosce bene l'argomento e poi insomma, ragazzi, al lavoro. È un lavoro come un altro, cioè, okay. È come Maldini calciava di destra e di sinistra, cioè, era uno che si era allenato, dai. No, si è allenato quindi sia a destra che a sinistra, per questo ci sta cercando di dire. No, ma scrivere, sai, è una roba che ovviamente è un talento, un'ispirazione, ma poi diventa anche un mestiere, capito? Certo, quindi certo. Solo mi faceva tanto ridere sta cosa per quello, cioè, quando ascoltavo i testi dicevo porco, ma sta roba scritta Jake, ma come cazzo? No, ma non è vero, ma tante volte non le ho scritte io, raga, questa è una è a metà tra la leggenda metropolitana e la realtà. Ma no, come i coccodrilli, so comunque aiuta, cioè comunque essendomi addentrato anch'io da poco in questa cosa, ho capito che non c'è chi scrive tutto e chi scrive niente, cioè no, c'è sempre una compagnia. Io lo chiamo lavorare all'americana, cioè l'americana, esatto, si chiude, però devo lavorare a un artista. Se tu guardi i crediti Spotify di Travis Scott sono in 45, appunto, certo. Esatto, si chiudono in studio e ognuno fa la roba. No, noi parlavamo di, cioè, questi giorni, appunto, cioè, te come la stai vivendo sta quarantena? Cioè, a livello di tranquillità mentale, perché noi ragionavamo su quanto può resistere l'italiano medio prima di che arrivi, certo, il pacciare della situazione. Parli da uomo ferito, ma che te sta succedendo? Io cioè, sono solo problema. Ne vuoi parlare? Sì, appunto, sono qua a parlare con voi. Allora, raga, è una cosa importante che la gente pensa che sia una condanna, invece io ho due figli e questa roba mi svolta la quarantena, nel senso che, sì, nel senso che mi tengono in ballo dalla mattina alla sera, quindi io mi sveglio, sono in un inferno costante fino a quando vado a dormire, e per cui mi passa il tempo, capito? Cioè, mille sbatti, si menano, si inseguono, piangono, vogliono fare 100 cose e tu devi stare là a farlo e quindi... E ti salvi da tante altre cose. Sì, ti giri e nel senso non è che hai il problema di non avere cosa fare, anzi hai il problema che vorresti sederti un attimo. Per cui, devo dire la verità, è certamente una roba alienante stare in casa tutto il giorno, ma se devi inseguire due piccoli criminali ti assicuro che ti giri e ti è passata la giornata. Noi stiamo facendo una mini indagine per capire come gli italiani continuano a lavorare durante il coronavirus. Sì. Nella scorsa puntata abbiamo sentito il padre saponificatore del Cile in Calabria. Sì. E in quella precedente abbiamo ascoltato uno spacciatore che ci ha illustrato i suoi turni lavorativi. Okay. Tu stai riuscendo a rimanere produttivo durante questa emergenza? O... Ma io in realtà sono poco produttivo anche fuori dall'emergenza, quindi sto approfittando beatamente per cercare di non fare un cazzo, quindi... Oh, ho finito delle cose che avevo da fare importanti e adesso mi sto godendo l'ozio proprio. Però allora io volevo parlare di questo, appunto, di tutto quello che adesso si sta creando sul web, giustamente gli artisti che cioè a me il terrore, no, che mi percuote mentalmente è che poi diventi tutta una sorta di fanfara e non ci rendiamo più conto che in realtà, cioè, viviamo una situazione un po' del cazzo, quindi, cioè, te come la vedi questo eccessivo protagonismo che ora un po' invade la rete? Ma guarda, io penso che sia una cosa, soprattutto da parte degli artisti, nella maggior parte dei casi una cosa per non sparire, perché ovviamente non avendo niente da fare, non avendo niente da proporre, la gente si propone sui social per far vedere alla gente che comunque è lì e fa delle cose. È un periodo anche abbastanza magro per la discografia, nel senso che nessuno vuole far uscire niente perché non si può promuovere niente, pare che gli streaming incredibilmente siano crollati, non so, la gente a casa si vede che invece di ascoltare musica fa altro. Va su Instagram. Va a vedere le minchiate, Infatti quella lì è diventata ormai una piattaforma, ormai siamo tutti diventati influencer, capito? Perché non abbiamo da fare il nostro lavoro. Io non sono molto social, sono social solo per le cose che mi interessano, per cui continuo a postare grandi cagate e continuano a non aderire a queste attività, magari sbagliando, però sai, non mi viene. Cioè non, no, ma io sinceramente preferisco questo, che cioè io inizio a avere il sentore di artisti che programmano gli orari, le cose. Cioè io ho la casa mia adesso, e Peddar può essere ne è testimone, è tipo il bagno di Whitney Houston prima che morisse. Madonna, quindi... è vero. ma ero dimenticato che cazzo di casa c'hai. Quando faccio le dirette, sì, metto a posto un giorno prima, ma poi dopo, cioè, il giorno e poi torna tutto uguale. Sposta i cadaveri delle puttane sotto il letto. Che comunque il Cina sta facendo la quarantena da solo. Che comunque non è che non deve essere semplice. Non si è ancora impiccato nel camino. Cioè, come hai fatto? Ma infatti, secondo me, la quarantena da soli è pesante, raga, è davvero pesante. Io sento amici miei che si stanno facendo la quarantena da soli e stanno veramente svalvolando. Cioè, per loro davvero andare a fare la spesa diventa come andare in piazza a fumarsi le canne una volta. Sì, ma poi quando vai a fare la spesa vedi solo altri zombie, cioè tieni pure l'inquietudine di vivere. Però è sempre meglio 2-3 zombie che uno zombie da solo. Cioè, Ma ho messo bene all'S Lunga che ti fanno il termoscanner, mi sono sentito molto Blade Runner, allora vado lì solo per il termoscanner. Sì. Ma davvero te lo fanno? Sì. A me me lo fanno alla radio quando vado a registrare, me lo fanno prima di entrare. Cioè, scusami, all'S Lunga c'è tipo lo scanner di atto di forza? Sì, arrivi. C'è quella specie di termometro per bambini livello pro che te lo posiziona. Sì, che poi secondo me non funziona bene perché a me dava 35. Ma raga, quello dei miei figli non ha mai funzionato, quindi non so loro. A parte che io sono ogni tanto, siccome sono un po' ipocondriaco, sarà la 35esima volta che provo la febbre, la temperatura più alta che ho avuto è 35,8, quindi credo di avere una patologia al contrario. Sei un serpente, come... può darsi, cazzo, deve essere quello. Ma secondo te quale sarà il primo rapper che verrà infettato dal coronavirus? In Italia, però. Ma boh, giudicare comunque dalle storie che vedo in giro, ce ne saranno già infettati. Secondo me. Sono tutti buttati nei parchi. Oppure la gente si fa la quarantena in 45, per forza. Che cazzo cambia? Beh, negli Stati Uniti non so se hai visto se Scarface e Slim Thug ammetto di essere stati infettati. Vabbè, ma Scarface non gli spa- neanche se gli spari in testa muore, figurati non muore mai, infatti. Però davvero fa un pippotto gli passa. Era proprio quello che abbiamo risposto appena ci ha detto sta cosa Matteo. Scialenarici immunità. E tra l'altro, non so se ve lo ricordate bene, ma anche Slim Thug, cioè anche nel Slim Thug ci vuole il mortaio per buttarlo giù. No, però c'è qualcosa okay. ora che ti prende bene della nuova scena? No? Non sono così talebano di mentalità, cioè ci sono delle cose che mi piacciono. La cosa che purtroppo devo far notare a tutti è che sono molto uguali. Cioè, puoi trovare una cosa originale, per farti capire, una roba che mi piace molto in Italia è da Supreme. Non sono l'unico perché piace molto a tutti. Certo. Però è una roba veramente nuova, però, capito? Una roba che lo senti e dici: Madonna, sì. Questa cosa qui prima non esisteva. Quello dovrebbe stare nel mondo più che solo in Italia. Esatto, me. Lui è veramente, veramente, veramente forte. Per il resto, quando sento le playlist, raga, mi sembra 100 volte lo stesso pezzo. Certo no, punto. Ma poi ora sai, Jake, ora dico. Però funzionano alla fine. Sì, funzionano perché è una roba che è proprio... Cioè la gente, perché secondo te non si è ancora stufata del fatto che sia un suono sempre uguale? Perché innanzitutto è una roba che prende veramente molto giovani, che secondo me non sono ancora usciti da quel loop di ascoltare sempre la stessa cosa, capito? Chi ha dei figli si accorge di questa roba qua, cioè i molto piccoli vogliono vedere sempre la stessa roba e sentire sempre la stessa roba. Per cui, voglio dire, lì siamo comunque... La trap, specialmente in Italia, a parte qualcosa che arriva magari ai 18-20, è un pubblico veramente, veramente giovanissimo. Per cui se c'è quella roba di ascoltare la stessa roba a ripetizione. Per cui allora credo che il successo sia che la gente sia un po' assuefatta. E poi è un genere di musica, la trap, che ha cambiato radicalmente la musica che c'era e ha, diciamo, ha influenzato la musica che c'era prima, che è tutto è diventato un po' trap, capito? Anche il pop assomiglia molto alla trap adesso, quindi diciamo che siamo lì. C'è stato un decennio in cui tutto era dance, adesso c'è un decennio in cui tutto è trap. Chissà quale sarà la prossima evoluzione, che cazzo ci sarà dopo? Il prossimo decennio sarà tutto mischeta, sarà. Tutto mischietta, ma vabbè, sono di dire vecchia, cioè, la faceva quasi Gigi Doug quella roba là. Beh, ma mica tanto, perché comunque mischietta è da un bel pezzo tanto che in giro. Sì, lo so. Nell'ultimo anno è esplosa tanto, complice anche che piace a della gente che piace, insomma. Certo. A te piace, quindi una perifrasi, Fedino. Beh, non è no, raga, allora non posso dire. Non posso dire che non mi piace, diciamo così, non posso dire che non è tra le mie cose preferite, ma riconosco... La maschera, dai, è piacevole. Poi se stato... io non l'ho mai vista senza maschera, non ve lo so dire. Dai, no, non hai mai googlato la foto di lei in metropolitana? Ma chi lo sa se è lei? È lei? È un Jake democristiano oggi, eh? No, ma non so se è lei, raga, Però okay. Ecco, un'altra cosa, ecco, si va sul mio settore praticamente, che non capisco, è questa nuova generazione di rapper, trapper, barre, il loro approccio con le sostanze, cioè questa roba dell'in, cioè ma come cazzo fai a drogarti con le medicine, cioè è una roba, boh. Ma raga, la droga è una roba che va con il tempo, adesso facciamo dei discorsi per cui domani la nostra carriera è finita, comunque ogni periodo musicale c'ha la sua droga, cioè come dice Marrakesh in un pezzo suo famosissimo che però adesso non mi ricordo qual è, le voglio piene no. quello è anche mio famosissimo, tra l'altro. Te hai regalato dei momenti d'oro, cazzo, sì. Cazzo, dice, te lo immagini Cobain senza la roba, effettivamente sì, oppure Jimi Hendrix senza la roba, Cobain senza la coca, adesso non mi ricordo com'era, comunque è la verità, cioè ogni periodo storico, ogni periodo, soprattutto ogni filone musicale ha un po' la sua droga di riferimento. Adesso non facciamo finta che la musica elettronica avrebbe avuto quel successo senza l'estasi, per capirci. Cioè, la club culture sarebbe stata la stessa senza le pastiglie? No. Non lo so, capito? La cazzo di codeina doveva recuperare in Italia, cioè è quasi impossibile. Mo vuoi sapere troppo. Però sai, cioè, l'ecstasy la trovavi sotto casa, la cazzo di codeina ne andai tipo in Svizzera. Però secondo me è una cosa, adesso io non lo so, io faccio parte di, sono di 2-3 droghe fa, però cioè io già la chetamina non l'ho mai pippata, non è mai stata la mia, diciamo dalla chetamina in giù tutto, dalla chetamina in su okay. non so di cosa. Ma secondo te le droghe influenzano anche il tipo di rap che si fa? O viceversa? O il rap che influenza le droghe? Dici l'extra beat? Influenza sicuramente gli argomenti, nel senso... Vabbè, se pensi a Axe agli anni 90 direi che sì. Sì, beh, vabbè, quelli che fumano fanno un sacco di pezzi sul fumo, quelli che pippano fanno un sacco di pezzi sulla bamba e vi andare. Capito? Ma io non dico solo gli argomenti, dico anche... Il flow, tipo. No, secondo me no. No, non influenza il flow. No, no, il flow è un po' più. Sfatiamo questo mito: la droga non fa male al flow, raga. No, infatti. Beh, però scusami, se pensi al flow della trap e il fatto che si facciano principalmente di droghe che ti rallentano il cervello, non c'è un collegamento, secondo te? Beh, ma. Mamma, il rap. Beh, non vuol dire, ci sono un sacco di trapper che rappano al doppio della velocità, per cui rappano praticamente un extra beat, cioè. Dipende, c'è filone e filone. Comunque, diciamo che influenzava più che altro. Ve lo ricordate il Chop and Screwed? Madonna, sì, sì, ecco, sì, quella lì è Lin parte da quegli quegli anni là. Sì. Già in America gli sciroppi andavano fortissimo, poi c'erano già i morti, purtroppo. Ma infatti, ragazzi, Lil Wayne pure me... stava stirato qua, e tu, Cile, quale droga ti ha influenzato? Vabbè, tutte, ovviamente. No, tutte insieme. A me, come sapete, l'alcol. Perché, come diceva Jim Morrison, è la droga più pericolosa perché è legale e la trovi ovunque. E quindi, sì, e poi comunque vorrei anche dire una cosa: cioè, poche droghe ti fanno non capire un cazzo come quando esageri con l'alcol. Sì, esatto. Sì, è proprio, cioè, quando ti ubriachi forte non capisci veramente un cazzo, e fai delle cose e fai delle cose che io posso paragonare solo i trip a una roba così. Purtroppo, il ritratto del Cile di ieri sera che io non ho mai preso, lo dico, me l'hanno raccontato. Giustamente, lo sappiamo che non fai uso, Jack. No, beh, ormai basta. Però no, guarda, però... io posso dire, non avrei mai smesso, dico la verità, però ho avuto un serio problema di polizia, di pulizia, per cui mi hanno tenuto sotto esame per quasi 5 anni, e in quei cinque anni mi sono fatto una famiglia e non mi sono più fatto nient'altro, perché ogni 6 mesi devo fare gli esami, e a quel punto basta, ormai sono pulito come un bambino, no? Ma perché come quando finisci un gioco e hai fatto tutti i livelli e non ti serviva più andare avanti. Ma sì, raga, poi dico una cosa, rischio di diventare impopolare tra i giovanissimi. Cioè, la droga c'ha un'età, ok? Quando sei giovanissimo ti diverti come un pazzo, poi diventi patetico. Se c'hai 45 anni e vai in giro tutto fatto, diventi una barzelletta, capito? Sì. Ho visto un video l'altro giorno di uno che sarà stato ultra settantenne, che stava in ospedale tipo con i flebo attaccati, si sta chittando una botta sul tavolo. Ah sì, l'ho visto anch'io. Della camera. E che aveva fatto? si fa un bel pippottone. L'ho visto. Sia quella la mia fine, però. No, vabbè, raga. Nel no, senso, certo. Cerco di scongiurare sta fine, però. Il mondo delle sostanze c'ha dei microcosmi e dei macrocosmi. Io conosco persone che se gliele togli le sostanze, tipo Arezzo, c'è uno che si chiama Lucertola. Che... che non ha detto niente, e secondo me il coronavirus è nato da lui. Cioè, lui, secondo me, ha mangiato un cinese. Che poi è la mamma del coronavirus. No, ma lui, ragazzi, cioè, è indistruttibile. Anche è Lucertola. Sì, l'hanno dato per morto i giornali aretini, ma più volte. E poi è rispuntato. Ma qual è il suo punto debole, però? Il suo punto debole è l'astinenza, credo. Che inizia a grattarsi, tipo come se avesse le pulci. Però sì, cioè, pensa che Trishat gli togli tutto a questa età che ha. Cioè, non, dove una cazzo vita ha? Da nessuno, una vita da lucerto. No, però raga, ritornando a cose semiserie. Ecco, ora stanno tutti i vari giornali, webzine, bla bla bla, dicendo, ora sta tornando la musica ADM nel rap, EDM nel rap, papà. Cioè, ma voi come Dogo l'avevate fatto, ma agli antipodi sta cosa. Cioè, sembra che sia nata ora, cioè la stanno vendendo come la novità del ma allora raga, secondo me non è una questione generazionale, è solamente una questione personale, ovvero dipende da quanto il singolo rapper è un tamarro. Esatto. E noi devo dire la verità, al di là di tutte le i nessi e connessi, diciamo che noi eravamo dei gran tamarri e quindi abbiamo sempre sguazzato e nel rap e nella musica dance, capito? Cioè comunque eravamo gente di discoteca, Gue un po' meno, ma poi l'è diventato. Comunque eravamo tutti gente di discoteca, per cui a un certo punto è stato naturale passare anche da quei BPM là. E adesso la cosa va, però voglio dire, Salmo ha sempre squazzato nella musica elettronica, Shiva comunque è uno che adesso ha rifatto il pezzo degli Eiffel, comunque uno che, cioè, voglio dire, non è Caos, per capirci, capito? Comunque gli hanno sbagliato l'autotune, cioè io come cazzo fai, arrivi a milioni di persone a non mettere l'armatura giusta nell'autotune, ma no, lui è il producer, dico, cazzo, cioè non è una scelta, cioè, artistica, scusami, ma non lo so, forse, ma può essere che sia una scelta artistica, ma io tra l'altro, raga, non sono in grado di giudicare perché io, come vi ripeto, non ci capisco un cazzo. Non capisco un cazzo, cioè se non fosse, se non ci fosse uno dall'altra parte del vetro che mi schiaccia i bottoni, io probabilmente farei meccanico, un'altra roba, non so. Ma non credo, non c'è, credo. C'è sempre lo Zangirolami dietro il vetro. No, vabbè, ma Zangirolami, figurati, è mio fratello Zangirolami. Esatto, è un fish, capito? Ma visto che, cioè, come ben sapete, voi siete tre musicisti, come ben sapete voi, sì, ormai si guadagna quasi solo esclusivamente sul live. Se sì, ovviamente tocchiamoci le palle, sta cosa dovesse andare avanti per, non so, se ci dovesse essere dei divieti per i prossimi mesi di fare concerti e cose simili, che cazzo succederà alla musica italiana? Ah, io torno a spacciare come facevo. Probabilmente che qualcuno ritirerà fuori il diploma di ragioniere, quelle cose lì, insomma, se andranno a cercare. No, non lo so, comunque diciamo che... Se lo stream è calato, i concerti non ci sono, come cazzo si guadagna? Cioè, questo è il senso. Allora, parlando con la Sony, diciamo che se dobbiamo basarci sul modello cinese, quando le cose erano nel pieno non si ascoltava un cazzo. Appena sono usciti un attimo dall'emergenza, lo streaming ha fatto un sacco di botto in più. Immagino che esattamente come quelli che sono chiusi in casa, appena usciranno, troveranno la prima che trovano per la strada e la appendono al muro. Immagino che succederà così anche, cioè la gente uscirà affamata di tutto dalle case, capito? Quindi sì, prima o poi, voglio dire, io non credo che durerà un anno questa cosa, io credo che durerà un mese ancora, massimo due, spero, anche perché dopo la gente inizierà a ribaltare le camionette degli sfiri per strada. A questo punto mi viene in mente una domanda: cosa farai il primo giorno in cui la quarantena finisce? Interessa sapere questa cosa. Primo giorno che la quarantena finisce, probabilmente porterò i bambini a dormire un paio di giorni da mia madre e tornerò a casa a fare un altro figlio, quello sicuramente. Ormai no raga, a parte gli scherzi, non lo so, banalmente vi dico una cosa molto banale: cercherò di rivedere tutte le persone che io sono uno molto sociale comunque con gli amici, cioè spesso mi becco, capito, serate, ma anche che fosse in casa, capito, cene, bordello. Quindi adesso sono ormai 21 giorni che non vedo un cazzo di nessuno tranne mia madre e mio padre, quindi a un certo punto credo che vedrò la gente che non ho visto. Per me un po' la gente si manca, capito, quando sei abituato comunque, cioè la socialità un po' manca, voglio dire, dopo 20 giorni che sei a casa un po' ti manca vedere chiunque, capito? Oggi ero in fila un quarto d'ora per fare la spesa, ho attaccato un bottone con quello davanti, capito? Piuttosto che parlare. Abbiamo parlato delle stronzate micidiali, capito? Però basta fare un po' di piazza. Qualcuno ha avuto il coraggio di chiederti un selfie mentre ti ha visto in giro tutti i giorni? Sì, oggi me l'ha chiesto uno. Tra l'altro ero un ragazzino con la madre. Tra l'altro c'era la madre con la mascherina, lui completamente a maglietta, senza guanti, senza mascherina, un ragazzetto. Ma tanto non muoiono i ragazzini, quindi. Tanto. Io ero guanti, mascherina, una cassa d'acqua e una cassa di coche, e stavo bestemmiando Nostro Signore, e quello mi fa, posso? E volevo dirgli, ma no, devi andare a fanculo. E invece comunque... No, io ho fatto fare un selfie, cioè mantenendo a distanza di... No, vabbè, mi sono avvicinato più o meno. Ma Jake, cioè, sei tu con la cassa dell'acqua e il bambino? Raga, se sei un vero artista della gente, purtroppo, cioè, il selfie è come il pompino, non si rifiuta mai. Ma devo dire che Axe ci ha detto che invece Axe ha detto che l'ha mandato a fanculo, invece il tipo che gli ha chiesto. No, ha detto, per ma sicurezza. Sì, ma siamo nel coronavirus. Gli ha detto. Vabbè, ma sai, non lo so, poi insomma, devo dire, dovrei dire delle cose che poi mi interviene Burioni e mi manda a fare in culo, però voglio dire, se io ho la mascherina e i guanti, capito, posso anche stare a 30 centimetri da te, a meno che non mi sputi in bocca, non credo che mi attacchi qualche cosa, sinceramente, no. Oh, diciamolo, sì. Ma invece, credo. Scusami, cioè, tu sai, sì. Più della mascherina e guanti, che cazzo mi devo mettere? Lo scafandro, non lo so. Preservativo totale, come vi ricordate, com'era una pallottola spuntata quando scopano? Che si mettono, sì. Preservativo totale. Esatto. Beh, no, c'era no. Anche un episodio di anni 90, non so se ve lo ricordate. Ah, sì, sì, anni vero. 90, quello con Francesco Benigno. Sì. Che era il siciliano, è vero. Bacio, quella della Fotti. Sì, sì, c'era Francesco Benigno e King Kong che andava in discoteca. Ragazzi, ma lo sapete che King Kong Oddio, era veramente stasera? No, dai, ci hai svoltato tutto. Però sarebbe fare un commentario di questi film con Jake, sarebbe il futuro del podcast. Perché guarda, fatto io queste cagate le conosco tutte. Abbiamo fatto un commento di Senza Filtro, il film di Axe, con Axe che lo guardava. Sì. Noi commentava, cioè, va a capire con te che c'hai. Minchia, sai che vorrei vederlo, ma si può sentire? C'è ancora questo podcast? Sì, sì, sì, no, sì, su YouTube. Su YouTube. Puoi allora lo allora vado a cercare. Allora vado a cercare, dai. È stupendo. Sì, sì. Io ero me lo ricordo bene quel film là. Io ero l'unico merda che difendeva il film, ma non perché sono un paraculo, perché all'epoca mi ricordo che c'era solo Muccino, questa roba così. Io vidi quel cazzo di film e dissi, oh, finalmente. Non c'è un cazzo di film romano. Il ritorno del musicarello era, capito? Senti, ma cosa diceva Ax? Dentro quel film che... Cosa diceva Ax? Si vergognava, cosa diceva? Ma invece, scusami, che ricordo hai tu del film porno che avete girato? Beh, era un'esperienza magica, comunque. Retroscena, vai, dai. Tanto lo sai che fine ha fatto una delle protagoniste? Scrivere del, il primato film, nazionale adesso. Sì, sì, lo so. Cioè, è amica mia su Facebook. Guarda che Cristina, secondo me, è una ragazza in gamba. Oh, ha fatto sta scelta, ma non è d'oro. Scemo. Dai, ragazzi. Sì, però che purtroppo non riesco proprio a condividere. Lo so anch'io. Le scelte politiche prese, però comunque io sono, cioè, ho dei ricordi piacevoli con lei, una persona che con cui mi sono divertito. No, adesso sembra peggio di quello. No, che senso? No, ragazzi, siete delle merde. Cioè, nel senso che siamo beccati in compagnia un bel po' di volte, ho fatto serate, ci siamo divertiti. Lei è rock and roll anche lei. Ma c'era Svajz che faceva il regista. No, se non ricordo c'era Svajz, esatto. C'era Svajz, era con Bandinelli. Sì. Era con Bandinelli che facevano queste specie di porno che erano o politici o tipo denuncia sociale. Ogni tanto una sborata in faccia. No, c'erano i rapper contro i raver. I raver. Esatto. Rapper esatto. Contro... No, poi diceva this is my ketamine, bitch. Cioè, ma il cinema ti ricorda pure la trama. No, io me la ricordo. Cioè. Vabbè, ma io guardavo quel cazzo. Tu vedi pure le trame di film. Non hai capito. Io guardavo, ascoltavo i Dogo, guardavo quel cazzo di film. E 4 anni dopo, più o meno, sì, mi hanno chiesto di fare una canzone con loro. Cioè, io ho fatto. Vabbè, ma Svajz ha fatto. Svajz ha fatto anche degli altri capolavori tipo sì, Moralità sì, corrotta sì, cioè sì, ne ha fatti parecchi No, ma c'è una scena, oddio, questo una scena. E Bandinelli ha fatto Anni di piombo. Cazzo. Sì, ha fatto Anni di piombo dove c'era Selene e c'era anche, mi sembra, come si chiama quella che poi purtroppo è morta, la moglie dell'industriale toscano. Ursula Cavalcanti, raga. Ursula Cavalcanti. Ammazza, che conoscenza che avete. Ah, beh, io raga, mi sono. Io mi sono spellato nella vita. Anch'io. Sei il LinkedIn del porno, sei abbastanza. No, però c'era una scena su Mucchio Selvaggio bellissima, che c'è praticamente Svajz che recitava anche lui con tutta la sesta fasciata perché era stato picchiato da rapper, lui era il raver, e a un certo punto fa: ma chi è che ti ha conciato così? E c'è un altro che recita malissimo e fa: oh, ma mi sa che mi stanno per arrivare le paste da Amsterdam. Oh, ma lo sai che mi fa meno male la testa? Insomma, fare questo. Abbiamo capito come stai passando queste giornate da solo. È l'effetto placebo. Quello. Era scritto da grandi sceneggiatori. Sì. Ma io mi sa che era quello di Senza Filtro. Ma non so. Avevo l'impressione. No, vabbè, ma raga, stiamo parlando di altri livelli. Cioè, era lo stagista di Senza Filtro. Il Fluffer, forse l'ha fatto. Vabbè, comunque, questa roba di aver fatto quel film mi ha introdotto per un notevole numero di anni in un mondo di pornografia che vi dico che mi sono parecchio divertito. Sì, è abbastanza. Mi ricordo all'epoca c'era MySpace, il MySex, se non ricordo male, eravate presenti. Beh, MySex, raga. MySex sempre, eravamo. Sempre. Beh, era divertente, adesso non è che posso raccontare tutto. Non ci scassate la minchia. Fedar l'ha buttata lì così, un po' sano. Io ho buttata là, poi vabbè. Ma senti, ma invece saresti disponibile a fare un tipo una specie di Amiche per l'Abruzzo, ma per il coronavirus? Vabbè, ma non lo stanno mica già facendo. Ah no, sì. Non lo stanno facendo. Sì, chi è che lo sta? No, c'è Lionel Richie che ha detto che vorrebbe rifare We Are the World, ma però sul coronavirus. Madonna. Lionel Richie, vabbè. Vedi la bamba come mica si è comprata sola. Te l'avevo detto prima, c'è un'età. Però la gente non sta già soffrendo abbastanza, deve pure sentire le canzoni per salvare il mondo. Raga, non so, se lo rifanno che mi chiamano, io ci vado. Se mi chiama, aspetta, mi sta squillando il telefono, magari è Lionel Richie. Adesso ti vado, metto viva voce: hi Jake, I'm Lionel. I'm here for you, we are waiting for your song. We are waiting for you for the coronavirus song. Il famoso coronavirus di Mario. A me mi è simpatico Conte, raga, perché Conte c'ha proprio la faccia. Cazzo, sì. di uno che sta pensando dentro di sé: ma chi cazzo me l'ha fatto fare a me? Capito? Lui è là, poverino, pensava di andare lì a scaldare la sedia, invece gli è toccato gestire una pandemia nucleare, il paese più colpito del mondo. Gli è successo tutto. Cioè, che lo diceva: vabbè, dai, mi faccio un po' di stipendi, poi boom, vai. Secondo me poverino si fa le canne con te. Sì, vero? Di nascosto. Sì. Almeno CBD la sera, una cannetta prima di andare a letto. Sai che comunque c'ha le stesse abitudini igieniche di Piero Pelù per quanto riguarda i capelli. Ma no, c'ha un po' di gelatina. Si lava una volta all'anno. Vabbè, ma non ha tempo, poverino. Jake, ascolta, ecco, questo te lo volevo chiedere da una vita e approfitto la situazione. Ma quando hai fatto il tuo disco solista, forse primo, che mettesti quel video su YouTube che c'era tipo sull'Italia, che c'era di mezzo anche un porno? Cioè, ma... ecco, sì, all'epoca, certo. All'epoca fu una roba rivoluzionaria, nel senso, te l'avevano detto che poi te l'avrebbero buttato giù. Cioè, come reagirono i discografici? Allora, io praticamente ho detto, all'epoca ero Universal ancora, e ho detto: questo video parla di quanto è marcio questo paese, allora io voglio fare un video altrettanto marcio. Mica, okay? Allora sei andato proprio sul live leak comunque. Sì, dai. Sono andato da Calu, che era l'unica persona che poteva farlo all'epoca, e gli ho detto: guardati, gli ho dato dei link, gli ho detto: guardati 2 ore di questa merda qua e cerca quello che ti piace di più. E scegli quello che rappresenta meglio. Infatti l'abbiamo fatto, e in Universal io ancora c'ho, siccome vengo dalla vecchia discografia, ancora mi posso permettere di avere quei contratti per cui ho la libertà artistica su tutto, capito? Cioè, se io domani volessi fare un disco di Rutti, non è che mi possano dire niente. Se posso fare un featuring, se vuoi. Appunto, c'è un bel duetto di Rutti. Comunque mi dissero: guarda che questo ce lo tirano giù. E io ho detto: vabbè, se ce lo tirano giù, è ancora meglio la pubblicità e durò meno di 30 secondi. Sì, è vero, sì. Però sì, io lo stavo in hype, l'ho visto anch'io. E forse ti iscrissi anche, non mi ricordo. Però cazzo, vedi, cioè, secondo me adesso manca questo nella musica di oggi. Cioè, ma quel video che fine ha fatto poi? Non lo so, ogni tanto lo ricaricano, ma lo ributtano giù. Beh, Salma ha fatto il video su Pornhub però, no? Qualche mese fa. Sì, vabbè, ma quello non è... Il problema non era solo quello, eravamo proprio, forse non eravamo, cioè YouTube non era ancora sdoganato, e comunque erano pure su Pornhub lì, comunque lì c'erano i morti, gente che si buttava, gente che si sparava, cioè, praticamente la roba che te manda il Marri, deep web, sì. su WhatsApp, sì, tipo, sì, vabbè. Io sono in fissa con quelle robe lì, raga, quei video della gente che si ammazza. Cazzo, ma come fai? A me mi hanno tolto, come cazzo si chiamava? Best Lore. L'hanno tolto, ora sono nel deep web. Ma che cazzo hanno tolto, fratello? No, praticamente, sì, devi usare un VPN. Usi un VPN, vabbè, fai finta di essere in Brasile, magicamente si apre questo. Vabbè. Sì, cioè lì, tu lì vai su, vai con Tor a vedere queste cose? No, io praticamente l'ho scoperto a Santo Domingo, perché in Italia non mi andava più, e ti devo dire la verità che mi mancava come un eroinomane. Anche a me, mi manca perché quando sei assuefatto a vedere la violenza, dopo un po'. Non ci stai più dentro, cioè la gente col cervello esploso ti mancava. No, sì, di è peggio, molto peggio di anche peggio, di peggio, di peggio. E praticamente non andava più. Allora a un certo punto sono andato a Santo Domingo, ero con Don Gio lì in riva al mare, ho aperto Besgore e funzionava. E funzionava mare con Don Gio ed ho aperto Besgore. Eh sì, esatto, è la cosa più bella che abbia mai detto. Ho aperto Besgore e andava, e quindi ho fatto tutta una bella incetta di morti, cartelli del narcotraffico, eccetera eccetera. Sì, lì sono, danno il meglio, eh. Deve essere stato bloccato in Europa o in Italia sicuramente, in Europa sì. Forse, non so. Vabbè, tanto noi mettiamo il VPN e li incuriamo tutti, vaffanculo. Ultimamente sta circolando su Instagram che ancora non l'hanno buttato giù questa foto di quest'orso che è stato ucciso, e poi di fianco c'è il signore. Guardando. Guarda che roba, sì. Ma per assurdo che... a me fa più effetto vedere un animale ucciso con una persona. Pensa come cazzo, sì, si ma di fianco c'è il bello da... C'è il signore che è stato praticamente preso dall'orso. Sì, senza faccia. Ah, ok, perfetto. C'è una cosa, e sta ancora, e guarda, cioè, c'è il video dopo che parla questo ancora. Sì, eccolo qua. Racconta che roba. Bene. Pare un prop di un film, capito? Ma cos'è, film di Leonardo DiCaprio, che c'è l'orso che se lo incula? Ma sai che incredibilmente, raga, incredibilmente ci sono buone possibilità che questo qui vada all'ospedale, perché no, lì cioè, guarda qualche foto dopo, cioè lui riplasticato. Sì, l'ho visto ma lo so, ma il problema è che lì gli è crollato giù tutto, no? Lì c'è buona possibilità che glielo ritirano su, e in realtà l'orso non gli ha portato via niente, gli ha solo, come dire, spostato la calotta cranica, capito? Glielo tirano su, gli danno dei punti e torna magicamente con la pelle. Con la sta cosa qua, lui che ancora parlava, capito? Sì, beh, quello lì fa veramente... La lingua sta ancora là. Raga, fa abbastanza schifo, ma vi dico, siete dei principianti. Va, sì, ma tu l'hai mai visto invece stava su Instagram, quel video famoso del tizio che si fa inculare al cavallo e poi muore? Siete ancora dei principianti. Vabbè, allora c'è un documentario. No, c'è un documentario che ha vinto Cannes sul tipo che si fa inculare al cavallo e poi muore. Io ho visto. Però l'hai visto, so che tu l'hai visto. Io li ho visti tutti, raga. A me quelli che mi hanno intrattenuto in negativo di più sono quelli dell'Isis, perché hanno questo stile hollywoodiano, cioè tipo, cioè hanno delle idee assurde, tipo quella con la gabbia che li calano giù e li fanno morire. Raga, accadanti. Secondo me 8 video su 10 dell'Isis sono finti. Può essere. Però, sì, infatti, ma poi sono dei fake, perché sono già morti quelli quando li decapitano. Capito? Sì, oppure io ne ho visto uno che faceva. Ma dobbiamo veramente parlare di ste cose. Non è che domani ci legano. Comunque, no, vabbè. Perché, ho visto. Ma chi è mondo cazzo? Ho visto uno che. Ho visto uno che gli tagliavano le braccia e sembrava proprio un fantoccio, capisci? Cioè, sembrava tipo, proprio che non era vero. Tipo il sangue di Kill Bill che gli dice... Sì, ma poi faceva una roba strana, no? Tipo la pancia di Beyoncé quando si è seduta da Oprah. Ha fatto... che tu dicevi ma non sei veramente incinta, però è vero, perché poi quando vedi quelli dei cartelli messicani invece vedi che cazzo, cioè lì c'è il sangue vero, tipo la famosa scena della motosega. I cartelli messicani vedi... sono i miei preferiti, in effetti. Io l'altro giorno ne ho visto uno con i messicani, che uno gli tagliano una gamba con un coltello, poi gli pigliano la gamba e gliela picchiano in testa. Questo è tipo un e ne ho visto uno del Comando Vermelho. Ne ho visto uno del Comando Vermelho brasiliano, che invece gli tagliano la testa, poi gliela riappoggiano sopra e lo pigliano a sberle. Così per ricordargli chi comanda. Esatto. Può succedere. Esatto. Potremmo invitare Comando Vermelho è Brasile. Brasile, no? Brasile, sì. Sono Comando Vermelho, cioè il derby è Comando Vermelho contro Primero Cartel, comando della capitale. Ah, ok. Sì. Di solito quando aprono Amigos dos Amigos pure c'è stato. Di solito quando aprono la porta sbagliata del carcere finisce con gente mangiata e cose così. A proposito, scusate, ma l'avete visto su Netflix? Non toccate i gatti, li lasciate in... Don't fuck with cats. Madonna, bellissimo. Quello lì, per esempio, sui siti di Gore, il film di lui, di Luca Magnotta, lì è stato uno dei più famosi in assoluto. Sì, prosciuga i gattini. Ma io no. L'ho preso per uno dei tanti video, capito? Invece poi ci hanno fatto pure la storia sotto. Cioè, è stata una sorpresa. Sì, mazza, questo l'ho visto ragazzi, già. Scusate. Ma è tutto sto casino... Di cosa tratta? Spiegatemi, scusate. Non... Allora, praticamente tratta di vabbè, adesso non ti posso svelare proprio tutto. Sì, sì. Parla di queste persone che intercettano un video di uno che uccide dei gatti. Ok? Allora, su internet. Allora, si mettono come in gruppo, perché sai che Facebook, comunque gli animalisti poi sono abbastanza estremi, e sì. Si mettono in gruppo a cercare chi potrebbe essere questo qua, e alla fine scoprono che in realtà questo fa molto di più. Peggio. Quindi è molto bello, molto bello. Don't fuck with cats, sì. Si chiama, su Netflix. Dopo lo guardo. E io vi dico l'ultima cosa, poi mi avete rotto i coglioni, vado a giocare a FIFA. Noi. Vi dico di guardarvi Tiger King, che adesso sta spopolando in America. Io l'ho appena visto. È una storia allucinante di omicidi, truffe, una figata pazzesca. Una figata pazzesca. Guardate, ok, vado a vedere. Raga, che dire, Jake, è sempre un piacere. Spero di rivederti fisicamente presto. Anche per me, raga. Vado a vedere un po' di video dei cartelli messicani. Dai. Non ci resta che dire. Buonanotte a tutti! Ricordatevi, ce la faremo! Grande! Maestro, gradisce un po' di cocaina? Certo. Comunque, raga, fermi tutti. Per farvi capire dove siamo, quello di ce la faremo è già diventato una specie di influencer. Mortacci. Sì. Adesso fa già i video su commissione. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.